il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige, a cura di Emanuele Cenghiaro. Una rete del riuso è nata a Padova 2 anni fa, promossa da 6 cooperative già attive nel territorio sui temi del riutilizzo e dei servizi ambientali, che si sono unite per portare avanti nuovi progetti. Si tratta di Angoli di Mondo, la cooperativa Altriceli, Città Solare, Gruppo Progetti Uomo, Mani Tese e The Future. Dopo 2 anni vogliamo oggi fare il punto. Sta funzionando questa rete? Come rispondono i cittadini e le amministrazioni comunali? E quali sono le eventuali prospettive di questo progetto? Ne vorremmo parlare con Giacomo Traverso, che è uno delle, in questo momento il coordinatore forse di questa rete fatta appunto da più soggetti. Benvenuto Giacomo. Buongiorno. Ecco, intanto Giacomo fa parte di Angoli di Mondo e vogliamo un po' partire dall'inizio. Come e perché è nata questa rete? Sì, ecco, appunto 2 anni fa ci siamo incontrati con queste altre cooperative che possiamo definire insomma parenti tutto sommato tra di loro, e nei vari ragionamenti che abbiamo fatto è emersa la situazione di dire per promuovere ulteriormente nuove attività che riguardano il riutilizzo è necessario rivolgersi ad altri interlocutori rispetto a quelli a cui ci stavamo già rivolgendo. In particolare l'interlocutore principale doveva essere l'amministrazione comunale o le società di multi-utility che gestiscono i servizi ambientali e di gestione dei rifiuti, che nel padovano sono ERA e ETRA. Certo. Quindi mentre diciamo la singola cooperativa, la singola organizzazione poteva avere meno voce in capitolo quando si rivolgeva a entità così più grandi e più importanti, diciamo, l'idea è quella che metterne insieme 6 possa avere più probabilità, più possibilità di successo. Ecco, quando parliamo di riuso non stiamo parlando di raccolta differenziata o non solamente, si parla di prodotti che vengono buttati via e che in realtà potrebbero avere ancora o una seconda vita o comunque sono ancora in buone condizioni. Esattamente, noi la nostra esperienza comune è che per varie motivazioni, sia di spazio che uno a casa non ha più, oppure di gusti che cambiano col tempo o le motivazioni più svariate, insomma, le persone si disfano, si liberano di moltissime cose che sono riutilizzabili. E anche sappiamo che avrebbero piacere che queste stesse cose venissero riutilizzate da altri, perché considerano loro stessi che sia uno spreco il fatto di buttarle via, e lo fanno un po' a malincuore, come dire. Il nostro obiettivo è proprio quello di cercare di intercettare più cose possibili, e veramente sono le cose più svariate, dai libri agli elettrodomestici, l'abbigliamento, i mobili, l'oggettistica in genere, insomma ce n'è per tutti, e metterle a disposizione di chi può essere interessato. E anche qui chi può essere interessato è una gamma molto varia di persone. Ci sono le persone che sono in difficoltà economica e magari non riescono a comprare qualcosa di nuovo perché ha dei prezzi troppo elevati. C'è chi crede nella filosofia dell'usato e del riuso e quindi dice: prima di comprarmi qualcosa di nuovo passo a vedere se lo trovo usato. C'è chi fa l'antiquario o il rigattiere e cerca da noi pezzi particolari per i suoi banchetti. E quindi insomma c'è una gamma... la gamma è ampia e varia. Ecco, leggevo che la normativa europea parla del riutilizzo addirittura come al secondo posto dopo per il trattamento dei rifiuti, perché c'è effettivamente la possibilità di ridurre significativamente l'impatto dei rifiuti sull'ambiente e ciò che va in discarica. Confermi che la mole può essere così ampia. Esatto. Diciamo che come livello di intervento è il più... diciamo, dopo il fatto di produrre meno rifiuti, diciamo il comportamento più efficace per affrontare il problema dei rifiuti è quello di promuovere il riutilizzo. Questo è quello che dice la legge europea, che viene recepita anche comunque dalla normativa italiana. Il quantitativo dei materiali ovviamente dipende da quante persone tu riesci a incontrare con le tue iniziative di mercatini dell'usato o cose analoghe. Noi nel territorio padovano, insomma, mettendo insieme queste sei cooperative, abbiamo una rete commerciale, definiamola così, molto capillare, con orari discretamente differenziati. Siamo anche dislocati in zone anche al di fuori della città di Padova in senso stretto, quindi possiamo raggiungere diverse persone, e questo è quello che poi ovviamente conta effettivamente, perché se non hai il cliente finale che in effetti riutilizza quello che tu hai recuperato, la cosa non solo non sta in piedi dal punto di vista economico, ma nemmeno raggiungi il risultato di sottrarre queste cose al ciclo dei rifiuti. Perfetto, ci risentiamo tra qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. Col suo colore, giuro che se il mio intervento è ancora troppo scelto. sciapo, non c'è alcun problema, l'ho già fatto e lo farò da capo. E salerò, e i saldi diversi, salerò, e non porta malare, salerò, diversi del sale, non tergiversare, e salerò, non venire a dirmi che salerò, che non è possibile, e salerò, torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di riutilizzo, grazie ad una rete del riuso che si è formata 2 anni fa a Padova. Ne parliamo con Giacomo Traverso della cooperativa Angoli di Mondo. Dicevamo che siete 6 cooperative che si stanno impegnando un po' a lavorare assieme su questo tema, e dicevamo anche che i rifiuti riutilizzabili, quindi chiamiamoli tra virgolette rifiuti, le cose, gli oggetti riutilizzabili sono tanti. La prima cosa che uno pensa è l'abbigliamento, però in realtà ce ne sono anche altri e anche molto ingombranti, come i mobili, oppure tutta la parte che riguarda le nuove tecnologie, computer, televisori, ma penso anche computer che buttiamo via dopo 2 anni che li abbiamo comprati, o telefonini eccetera, dove forse si potrebbero, magari per un piccolo danno, e si potrebbero riutilizzare in altro modo. Certo. Appunto, come dicevamo prima, le cose sono le più svariate. Sta un po' a noi operatori del settore, diciamo, riuscire a capire che cosa tra tutti i materiali che ci arrivano e che noi filtriamo è effettivamente riutilizzabile oppure no. Insomma, anche in questo ambito esistono le mode, esistono i momenti, c'è il momento in cui va di più una cosa, in cui ne va di più un'altra. Insomma, noi dobbiamo stare un po' attenti a seguire questi andamenti in maniera da ottimizzare un po' il nostro lavoro. La gente vi porta loro questo materiale? Siete voi che dovete andare in cerca? Cioè, c'è da sensibilizzare ancora sul fatto che le persone non gettino in discarica ma vi portino queste cose? Oppure il problema è quello che avete troppa offerta e poca richiesta? Ma no, diciamo che complessivamente l'equilibrio tra quello che noi abbiamo da offrire e le richieste che riceviamo è abbastanza buono. E sicuramente quello di cui ci accorgiamo, per esempio, in occasione della festa del riuso di settembre tradizionale ormai di Legambiente, noi siamo in piazza, noi e anche le altre cooperative che aderiscono alla rete, una cosa che ci sorprende sempre negli anni è che capita che passino molte persone che ci dicono: ah, ma io non vi conoscevo, ma dove siete? Ma da quanto ci siete? E diciamo che per un'organizzazione che comunque c'è a Padova da circa 30 anni, ecco, alcuni di noi, non tutte quante 6 le cooperative, però alcune lavorano a Padova da appunto più o meno 30 anni, un po' questo indica che siamo ancora poco conosciuti e qualcosa su questo fronte si può sicuramente ancora fare. Ecco, stiamo andando verso la conclusione. Qual è il prodotto che più vi viene portato, l'oggetto che vi viene portato, e quello invece che è più richiesto? Ma qui non saprei veramente dirti, nel senso che più l'abbigliamento oppure altro, mobili? Ma noi raccogliamo veramente di tutto e i periodi vanno, ecco, diciamo che la base che ha un andamento più stabile sia per la raccolta che poi per le vendite sono l'abbigliamento e l'oggettistica in genere. I mobili, le cose un po' più ingombranti, hanno dei picchi in alcuni momenti, hanno dei forti cali in altri momenti, ecco, hanno un andamento più irregolare. Però anche quelli sono richiesti e possono essere spesso un'ottima opportunità, perché ci sono mobili messi anche in buone condizioni. Certo, come dicevamo prima, ce n'è un po' per tutti i gusti, abbiamo anche il mobile di inizio Novecento, come dire, ma come anche invece il mobiletto da mettere in camera, insomma, che è molto più semplice, insomma, è meno prezioso, se vogliamo, ecco. Ce n'è un po' per tutti i gusti. Certo, quindi prima di buttare qualche cosa che è ancora in buone condizioni, pensate un attimo, dovunque siete, vi sono sicuramente delle realtà che danno nuova vita a questi prodotti, sia su un mobile, un computer o un oggetto di abbigliamento. Possiamo dire dove poter avere informazioni sulle 6 cooperative della rete, che vado anche a ripetere: Angoli di Mondo, appunto, Altriceli, Città Solare, Gruppo Progetti Uomo, Mani Tese e Refuture. Certo, beh, allora ogni cooperativa ha il suo sito internet in cui potete trovare tutte le informazioni, sia rispetto agli orari o i numeri di telefono, i recapiti delle varie sedi. C'è anche un sito della rete, che è Rete Riuso Padova, e quindi ci potete trovare, diciamo che in rete potete trovare tutte le informazioni necessarie per un primo incontro, un primo approccio. Ecco. Benissimo, grazie. Grazie a voi. Concludiamo con due appuntamenti: sabato 29 e domenica 30 ottobre, nell'ambito del primo Festival delle Terre Benedettine, a Villa Renier di Ponte Casale si tiene, vicino a Candiana, si tiene la fiera del mercato Borgo del Gusto con la rassegna enologica e gastronomica Candiana Vinum. La fiera mercato è in programma il sabato dalle ore 14 e la domenica dalle 10, la rassegna enologico-gastronomica sabato sera dalle ore 20 e poi la domenica dalle ore 12. C'è anche un programma di eventi collaterali e di incontri, tra cui una biciclettata alla scoperta delle terre delle corti benedettine alle ore 10 della domenica mattina. Nello stesso fine settimana, da venerdì 20 a domenica 30 ottobre, si tiene a Vicenza Gustus, vini e sapori dei Colli Iberici, una rassegna che trasformerà Palazzo Valmarana Braga, nel centro storico della città, in un grande banco d'assaggio con oltre 100 etichette e 3 degustazioni pensate dal Consorzio di Tutela Vini Colli Iberici e Vicenza per scoprire i segreti dei vitigni del territorio. Nei 3 giorni dell'evento la scoperta del territorio passerà anche attraverso il cibo, con gli assaggi gastronomici preparati da alcuni ristoratori locali. L'evento sarà aperto al pubblico venerdì 28 ottobre dalle ore 19, sabato 29 dalle ore 17 e domenica dalle ore 16 fino alle 19. Il biglietto d'ingresso è acquistabile in loco fino all'esaurimento dei posti disponibili a euro 23, comprende assaggi limitati di vino e un piatto di tipicità gastronomiche. Per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio alla prossima. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, 4 elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.